24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Eccoci qui, sono le 6:32 minuti, è tutto svelato e disvelato, ormai l'ha capita anche Renzi, la battuta sul tacchino e sul tetto, gliela chiesta a pranzo ed è tutto chiarito. E dunque, siamo pronti anche oggi fino alle 9 di stare con voi. Vi dico subito che oggi avremo, alle 8:15 avremo Antonio Ingroia, alle 8:30 fino alle 9 avremo Roberto Maroni, ecco questi due protagonisti della politica, gli uomini del giorno, soprattutto Roberto Maroni, no? Autore di questo accordo con il Popolo della Libertà. Allora, come sempre, visto che ci avviciniamo a una campagna elettorale molto molto intensa, ci siamo già pieni dentro con tutti i piedi e le mani, il consiglione. But please relax. Più che mai importante da seguire. Risentiamolo, perché state andando al lavoro e mi raccomando, vi aspettano 40 giorni di intensa campagna elettorale. But please relax. Come sempre. E allora apriamo il nostro bar, il bar Anno Nuovo Vita Vecchia, offre sempre lei, Nicole Minetti. A tutti quanti Nicole Minetti offre il caffè se venite qui nel nostro bar che abbiamo risoprannominato. E saluto il primo avventore, Vincino. Buongiorno. L'abbiamo soprannominato come il nostro bar nuovo, Bar Condicio. È ovvio, è perché è così. Saluto anche, le faccio ritrovare, Mario Adinolfi, un nuovo Mario Adinolfi. Buongiorno. Con Vincino, Mario Adinolfi. Nuovo, c'è sempre Radio Yes, questa alle 8, no? Questo non cambia. Quello non cambia mai. Però è cambiato Adinolfi, Vincino. Mario sta con Mario, i due Marios. Vincino, lo sai che Adinolfi non sta più col PD? No. Con chi sta? Con Mario Monti. Con Mario Monti sta. E dove è candidato? Questo non si sa, ma appunto si candida Adinolfi, sì. Ma non mi piace fare la radio, quindi credo che farà la radio, però insomma dovendo scegliere proprio in limine mortis, meglio Mario Monti. Ma la pensione l'ha già acchiappata per quei due mesi di... No, io la pensione a me l'hanno abolita vicino. Mannaggia! Niente vitalizio, l'unico parlamentare senza vitalizio. L'unico no, ce ne sarà qualcuno. Sì, però, allora, visto che l'avete subito buttata sui soldi Vincino, sì, subito la monetizzata, vi faccio ascoltare una voce che è di un personaggio che è sulla bocca di tutti ormai. Chi sono paese rosso? Questo paese do mare, questo paese, oggi di parole sempre. Ma avete riconosciuto? Parole d'amore. È superbo. Oui, tengo cuore italiano. Cuore italiano e passaporto russo. Chi è Vincino? Depardieu. Assolutamente, un mito a Pantelleria. Un mito a Pantelleria. Ma sentite ieri Vendola, anche questa è già entrata nella storia. Vendola che commenta Depardieu, Ma sì, ma questo atteggiamento di Gérard Depardieu è proprio insopportabile, no? La ribellione dei ricchi. Lui va a chiedere protezione a Putin. Va dall'inferno. Putin c'ha le physique du rôle di un Belzebub di quella parte del mondo. Va dall'inferno. Vendola è d'accordo con Reagan, è l'impero del male. Va dall'inferno. Mario Adinolfi, a parte che manco Checco Zalone avrebbe immaginato una frase, c'ha il physique du rôle di Belzebub. neanche Checco Zalone se la sarebbe immaginato una frase così. Ma allora, siamo a questo. Te lo ricordi? Anche i ricchi piangano, no? La campagna. Ma come no? La manifesto. Insomma, il manifesto. Rimane quello l'atteggiamento, non so quanto funzioni, diciamo così, però vabbè, ognuno ha i suoi modelli culturali, diciamo così. Per me è meglio che non vada nessuno all'inferno. No, perché è un vecchio retaggio. Ma era una battuta, però oggi subito Pierluigi Battista sul Corriere. Era piuttosto cattiva. Era cattiva, non era una battuta, era cosa detta proprio con un'intenzione. Eh sì, c'è cioè la demonizzazione della super ricchezza. Siamo a questo, Mario. Che poi non è super ricchezza, insomma, cioè, c'è un problema anche lì, insomma, di capire se l'opzione di sinistra di prendere il 75% dei redditi da uno che guadagna più di un milione sia giusto o meno. Ecco, diciamo, questa è una cosa su cui bisogna ragionare. Io penso che, per esempio, sia una cosa sbagliata in radice, insomma, cioè un'aliquota fiscale del 75% se non è un errore, insomma. Ma infatti in Francia la Corte Costituzionale l'ha bocciata la proposta di Hollande. Quindi adesso vedete quanto è difficile, è antiestetico quello che fa Depardieu. Poi se si ragiona magari si trova qualcosa di sbagliato anche in quello che ha dovuto subire Depardieu. Però è interessante, Vincino, che ne pensa di questa di questa demonizzazione, al di là delle battute, del vada all'inferno? Il tema c'è, cioè il tema di una sinistra radicale, in questo senso, che esprime questo sdegno proprio per un super ricco che per di più per questo vuole andare all'estero piuttosto che pagare una tassa altissima del 75%. Come dire, giustifica tutto, assolutamente. E poi diciamo, Depardieu è uno dei più grandi attori contemporanei, cioè uno che i suoi soldi se li è meritati tutti uno per uno, ha dovuto mangiare tonnellate di cose, ha dovuto andare indietro nella storia, avanti e indietro, ha fatto Obelix, ha fatto tutti i personaggi francesi, come dire, uno eccezionale, diciamo, no? Sì, è fatto. Uno è paragonabile al nostro Mastroianni, insomma, non lo so, più o meno, anche se hanno anche fatto molti film insieme. Oggi, credo che venga sia qualcosa di personale in questa cosa. Sì, ma cioè si sentiva proprio l'astio. Ha qualcuno con un figlio di un ricco e l'abbia lasciato solo e lui arrabbiatissimo. Non lo so, cioè, però era proprio astioso, no? Ma vada all'inferno. Cioè, il giorno in cui quello assume il vice direttore della Confindustria. Stesso giorno, cioè vengo, a quanti voti farà perdere a Bersani? Ma no, che come il vice direttore di Confindustria? Ma questo... quello là, come Bersani? Bersani è candidato. No, l'ex direttore, Galli. Ma che c'entra con Bersani? Ah, beh, Bersani. Lo stesso giorno che Bersani assume quello gli fa i VIR. Attenzione, perché sapete che Vincino ha sempre queste letture. Cioè, è una contemporaneità pazzesca la situazione. Ho capito, cioè, secondo Vincino era un modo per criticare la scelta di Bersani di candidare il direttore generale, ex direttore generale di Confindustria. Sì. Vabbè, ma cosa c'entra l'ex direttore generale di Confindustria, che ha per esempio delle imprese con i super ricconi? Alla Depardieu. A Confindustria sono tutti poveri? No, non è che sono tutti poveri, meno male, no. Sicuramente no. Da 250.000 in su. Che cosa? Cioè, uno da 250.000 in su è ricco, no? Poi sopra il milione è riccone, no? Riccone. Ecco qua. Per cui al di là del fatto che anche Vendola c'è così paro, perché come presidente della regione quanto guadagna, povero non è certamente. Certamente no. Però non parliamo di queste cose personali. Come dire, era un messaggio di questo tipo, secondo Vincino, un messaggio di questo tipo, non lo so. Però devo dire, a proposito di soldi, Maria Dinolfi, ecco, questo la devo dire, perché Mario Monti, secondo me, ha sbagliato quando ha risposto a quella domanda non rispondendo sull'IMU, quanto pagato di... Non ha dato il senso un po' del distacco, del professore distaccato dal paese. Infatti oggi Repubblica, cosa fa, non so se l'hai già vista, no. È andata a fare le pulci di quanto paga l'IMU Mario Monti. Adesso ve lo dico subito. Secondo l'articolo di Alberto D'Argenio che trovate su Repubblica, paga lui 26.353 euro per 27 immobili e la moglie 8.000 euro. Fa un totale di 34.000 euro. Mm, che diciamo, per carità. Però è una cifra, 27 immobili. 27 immobili, così leggo le pertinenze, eccetera. Un anno e mezzo per ogni anno in Europa. È tutto dichiarato. Però chiediamo Maria Dinolfi, Mario Monti lo potremmo considerare tra i super ricchi? Sicuramente non è una persona che sta male, insomma, per cui sulla risposta sull'IMU tradisce la sua ingenuità, sincerità, diciamo così. Non è uno che vedo far la fila alla posta per pagare il bollettino, ecco, insomma, quindi era credibile che non sapesse il conteggio esatto e che qualcuno se ne sia occupato per lui, insomma, certo, poi dopo ovviamente siamo in campagna elettorale, quindi ogni risposta dà adito a critiche. Eh sì, è certo. Sì, perché dire non so quanto pagato è un po'. Una sensazione di sincerità quando vedo Monti, anche nel suo essere impacciato qualche volta in televisione, insomma. Vedi uno che non è un politico professionista. Sai? Beh, quello sì, non è uno scafato. E in questo c'è una sorta di bellezza. Quando vedi tutti quelli furbacchioni che stanno sempre la risposta esatta al momento giusto, lì vedi uno che con sofferenza deve sottoporsi a questo supplizio, insomma. Sì, non è il politico navigato, Vincino, non è quello. Non mi pare tanto sofferente, devo dire. Mi sembra che in questi giorni, in questi mesi, cioè da quando ha deciso di candidarsi praticamente un anno fa, no? Sì. È di una felicità folle, ogni giorno che era all'estero diciamo quanto sono bravo, li ho salvati tutti, erano tutte cose, se non ci fossi io qua. Ma poi questi giorni qua, ogni giorno, mattina, pomeriggio, sera, che ha superato Berlusconi, che è tutto dire. Cioè è uno di una felicità folle. Se gli leviamo questo giochetto, poveretto, che gli rimane? Ma se non ride mai, a parte che è senatore a vita, poi potrebbe puntare al Quirinale. Godere non è ridere però, scusi. Godere non è ridere. Se questo io godo anche tante volte, mica rido sempre. Tra l'altro oggi c'è stata anche una bacchettata sempre su Repubblica di Matteo Renzi, che è tornato a parlare, e sempre qui Vorrei Adinolfi, che è stato un renziano, insomma Renzi l'ha definito un demagogo, Monti, pensate, ha detto stare con Casini e Fini è fantascienza, come cercare di circumnavigare Capo Horn in pedalò. Mario Adinolfi, rimane il numero uno. Sì, gli vengono queste metafore che sono effettivamente molto, molto bestugliate. Questo se lo inventa lui. Se lo inventa lui. Ne suggerisce un altro, ma insomma. Sì, non ci sono tacchini, non ci sono tetti. No. Mario Adinolfi, insomma, ti sei imbarcato in una bella avventura perché. Renzi, in questa fase, gli è stato assegnato il ruolo di marcatore di Monti, è il Claudio Gentile del Mondiale 82. Ah, quindi Maradona, Monti e Maradona. Deve marcarlo. Zico anche. E fa quello che gli è stato detto di fare, insomma, no? Poi Matteo è bravo, immaginifico, insomma, quindi io ripeto, credo che per le opzioni di chi ha sostenuto un'idea libera del PD, lo si vede in queste ore in cui tutti i montiani vengono passati a fil di spada nelle liste del PD, e non è un caso, insomma, credo che siano in registri di uno o due, se non ho capito male, dagli equilibri. Noi abbiamo una mancanza di cittadinanza per quelle idee dentro il Partito Democratico, che si è radicalmente spostato sulle posizioni di Fassina, Damiano, della CGL. Con Pietro Chito abbiamo sostenuto una cosa completamente diversa durante la campagna che ha sostenuto Matteo Renzi nelle primarie. La radicalizzazione della linea del PD, unita alla novità del fatto che Mario Monti si è candidato, nessuno lo immaginava che questo potesse accadere, ha creato ovviamente una novità su cui il PD si misura e mette Renzi in marcatura su quindi un po' una risposta anche alla vendolizzazione di Bersani. È evidente, insomma, se si sposta tutto, ma non solo su Vendola, insomma, è usato un po' come immagine, ma è più sulle linee della CGL. Io penso alla riforma delle pensioni, che è la cosa più bella che ha fatto questo governo. Sì. Secondo quello che pensa Fassina, Damiano e tutti quelli che sono in quei 500.000 soldati, diciamo che. Sì, su quello discutiamo, abbiamo lavorato in Parlamento, però sull'impianto della riforma, che è una riforma che cambia i propri parametri. Mandi 300.000 persone alla disperazione e tu non rimpiangi la riforma. Quella cosa è stata corretta in Parlamento. Il dato che è importante, però, che quella riforma cambia i parametri in cui si va in pensione in Italia. L'idea di Ma Vincino dice, mandiamo, ci sono 300.000 persone alla disperazione, quanti sono gli esodati? Non sono più 300.000 perché sono stati corretti quei dati. Sì, ma non ce ne deve essere manco uno. Sono stati ricoperti. Sono d'accordo, però manco uno. Affrontato questo elemento, rimane al Paese una riforma delle pensioni fatta ovviamente sotto spada emergenziale in quella fase, che ha messo in condizione i conti di essere salvi. C'era la spada emergenziale. Ci sono 22 miliardi di euro di anno di risparmi che vanno a beneficio delle giovani generazioni che forse avranno a questo punto una pensione. Su questo, che si fa? Su questo si torna indietro, il PD vuole tornare indietro. Ma questo è il punto politico, però Vincino dice manco uno ce ne dovrebbe essere. Però andiamo così, dobbiamo andare per ordine, il traffico, la segreteria, poi rientriamo, poi magari parliamo anche di Lega e PDL, no? Che è tornato il grande amore. 24 mattino. La domanda è: ma perché nessuno parla delle famiglie, che sono il vero sostegno di questa nostra nazione? Senza sostegno la nazione muore. Io credo che molti italiani questa volta non andranno a votare. Tra chi si sceglie? Uno fa più schifo dell'altro. Non è vero che noi ci arrabbiamo, ma noi siamo stati presi per il fondello del sedere per tutti questi anni ed è inutile che tutte queste persone che si presentano per salvaguardare la loro cadreghetta, perché quando loro erano al governo non hanno fatto nulla. Come si fa a credere a questi buffoni papponi mangiapane a tradimento? Sono anni che ci stanno prendendo per il culo. Perché bisogna crederci proprio adesso? Ascolti, quando ha un momento di tempo libero, si occupi un po' del pronto soccorso dei senatori, perché io sono molto preoccupata per la loro salute, non si sa mai dove sono sentirsi male. Quei deputati che hanno la fedina penale pulita e che sono stati assenti il 90% delle volte, come li chiamate? Io li chiamo ladri! Ma perché non affrontiamo l'argomento di quanto ridurre gli stipendi di ogni singolo politico? Non ci sono altri argomenti. Ti posso raccontare una barzelletta? Signor Milan, lo sa perché i carabinieri hanno i baffi? Perché sulla scatola delle lamette c'è scritto da barba. Cosa fanno due formiche dentro un vasetto di zucchero? Fanno la settimana bianca. E vabbè, insomma, anche qualche barzelletta, Vincino, questi sono barzellettini un po' vecchiotte, devo dire, non di primo pelo. Allora, Vauro l'ha dipinta, Vauro che è il condirettore insieme a Vincino del Mare, l'ha dipinta così sul Fatto Quotidiano: Habemus Papi. L'accordo PDL-Lega, il Habemus Papam di Berlusconi, l'accordo PDL-Lega, insomma hanno fatto un accordo pragmatico. Maroni ha detto la base, certo, ma o così o perdiamo, è l'unica possibilità per vincere in Lombardia. Effettivamente i sondaggi ora danno Maroni come il più probabile vincitore in Lombardia. Questo accordo PDL-Lega, Vincino, con... E da quant'è? Dal 1994 si accordano, si accordano. Si prendono, si riamano, si rilasciano. Uno merita l'altro praticamente. E poi, vabbè, cioè, non parliamo dei senatori leghisti, diciamo, no? Ma la vicenda... Questi qua, gli hanno dato, non so quanti, 3 milioni all'anno così per le loro spesette personali, e quindi li hanno presi sul serio. Attenzione, usiamo sempre i condizionali, c'è un'inchiesta in corso. No, ma i 3 milioni li abbiamo dati, no? Vabbè, quelli a tutti, cioè. Quelli... Se li meritavano, ma che dovevamo farci, cioè? Ma scusa, siccome il gruppo parlamentare non deve spendere niente perché gli lo paga già tutto il Senato, che deve farci? Ma quello dovrebbe essere per tutti, certo. Tagliare. Arriva il leghista e prende, cioè, mi serve la lavatrice, gli faccio la lavatrice, ma anche quello del PD, se gli serve la lavatrice, prende i soldi e si fa la lavatrice. Cioè non è che la capogruppo al Senato Anna Finocchiaro è quella che ha fatto costruire quell'enorme cosa a... inutile da qualche parte, a Bronte perché il marito poveretto dice ho bisogno di un ufficio pulito, di un ufficio, e l'altro gli ha fatto questa enorme cosa che poi peraltro è praticamente chiusa, no? Non ne so niente, Vincino, ogni tanto lancia queste bombette atomiche. Che ha fatto a Bronte? Io non so che al marito ha siciliano fatto una specie di nuova ASL speciale, no? Che praticamente totalmente tipo una piramide enorme, totalmente inutilizzata. Capito? Ma mica l'ha ordinato. Il marito, poveretto, mica adesso l'avrà ordinato Anna Finocchiaro. Fate questa ASL speciale. C'era lei, all'inaugurazione c'era lei. All'inaugurazione. L'assessore alla sanità russo e la Livia Turco. Vabbè. La foto. Sì, certo, ma l'inaugurazione mica ha detto fate costruite per mio marito questa cosa. No, queste cose, perché poi dopo. Ci attaccano giustamente, però Adinolfi, Lega PDL, e oggi Roberto Dalimonte fa un'interessantissima proiezione e commento di sondaggio Ipsos sul Sole 24 Ore a dire che adesso con questa alleanza ci sono tre regioni che sono Sicilia, Lombardia e Campania, dove al Senato c'è incertezza assoluta, il che vuol dire rischio davvero di parità al Senato, eh? ci metterei anche il Veneto, credo. Insomma. Sì, sì, anche il Veneto. Il dato è poiché in Lombardia, adesso per spiegarlo ai radioascoltatori, Lombardia, Veneto, Sicilia e Campania eleggono una marea di senatori, per capirci. Infatti. Lombardia da sola elegge 49, il Veneto altri 24, il solo Lombardo-Veneto elegge 73. I senatori sono 315, poiché i premi di maggioranza al Senato sono regionali, cioè chi vince la regione sì. prende il premio di maggioranza, questa cosa potrebbe creare le condizioni del famoso pareggio, diciamo, più o meno, o comunque insomma ecco, è l'impossibilità al Senato di avere una maggioranza per Bersani, insomma, la cosa più bella lo sai che ho letto stamattina qual è Vinci? Se la lista Monti non prende il 10% alla Camera non becca un deputato perché così? Perché le liste devono prendere il 10%? No, forse è meglio se spiego questa cosa. Adinolfi, allora, se la coalizione, siccome c'è il limite di coalizione, diciamo, il Parlamento ai partiti che è al 4%, la coalizione al 10%, siccome noi alla Camera siamo presentati. Ho capito, ma non prendono il 10%. Figurarsi se Casini, Fini e l'agenda Monti non prendono il 10%. Fini allora. 0,3. Casini è arrivato al 4, Monti al 6, se la giocano. Dice, mamma mia ragazzi, come un sogno, ma di Rolfi va tirato una iattura a Vincino, dite manco arrivate al 10%. Oggi dai, insomma, si vede che sogna la Lega trionfante. No, non lo so, ma no, dai, al 10% non arriva la coalizione, Casini, Monti, ma no, Vincino. Dagospia l'ho letto, che è la mia cosa là. Dagospia, il sondaggione, la Bibbia di Dagospia. Sentiamo Beppe Grillo in chiusura, ce la facciamo sentire Beppe Grillo che in un fuori onda avrebbe detto torno al teatro? Ma te l'ho detto, io quando andremo alle elezioni, subito dopo che cercheremo di entrare in Parlamento, subito dopo io mi riprendo a fare il teatro, farò le mie cose, farò magari una cosa diversa. La mia natura è quella lì. Ora io sono più serio perché se io faccio dell'ironia, del sarcasmo o uso il paradosso in politica non aspettano altro che il paradosso per rendertelo vero, hai capito? Allora io devo essere serio anche quando scrivo, devo essere preciso, la scrittura, non puoi usare l'ironia, sennò l'ironia viene interpretata in un'altra maniera. Vabbè, ma non ha detto niente di che ha montato un caso a dire torno a teatro, ma insomma ha sempre fatto gli spettacoli. Una cosa divertente è notare che sia Grillo che Monti sono due candidati non candidati praticamente. E infatti... Cioè, che comanderanno i loro gruppi come faceva Conte durante la squalifica. Conte, l'allenatore della Juve. No. Perché Grillo non è certo candidato premio, non si sa chi sarà. Comunque giorni di liste, il giro di due giorni presentano tutto, bisogna presentare le liste, indicare i candidati premio. Insomma, Siamo delle liste. Torniamo al caffè o andiamo al ristorante? E come no, va bene. Al caffè perché paga Nicol Minetti, al ristorante poi tocca trovare qualcun altro che paghi. non lo so. Paga Adinolfi, va bene. Vi ringrazio. Su Radio Yes di che parli oggi Adinolfi alle 8? Di PDL. Di PDL no? E Lega, ovviamente. È inevitabile. Vabbè. Grazie Mario Adinolfi, grazie a Vincino per essere stati con noi. Ci ritroviamo dopo il GR delle 7 per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora, eccoci per chi si aggrega alle 7:18 minuti. Noi siamo in onda dalle 6:30, ricordatevelo. Siamo pronti però ora a leggere i giornali. Vi ricordo anche gli ospiti politici di oggi alle 8:15, tra poco meno di un'ora avremo Antonio Ingroia, il candidato premier per Rivoluzione Civile. Poi dalle 8:30 alle 9 avremo Roberto Maroni, il segretario federale della Lega, per parlare ovviamente soprattutto, ma non solo, dell'accordo PDL-Lega. Questo il menù

perché i partiti sono sempre una realtà importante, ma in prima fila, al contrario del passato, in prima fila mettiamo la società civile in seconda fila, i partiti, la buona politica che comunque serve. In questo lei è un po' come Monti, no? Che dice faccio politica perché la politica così come oggi in Italia non mi piace, quindi... cosa c'è di male nella politica finora espressa dall'Italia, secondo lei? Il peggiore male qual è? Beh, che non ha da un lato risolto in alcun modo i problemi degli italiani e dall'altro un modo di essere autoreferenziale nel quale ha cercato di riprodurre e perpetuare i privilegi della casta politica, approfondendo il fossato, la distanza fra cittadini e istituzioni politiche. La prima cosa che bisogna fare per attuare questa rivoluzione civile, secondo lei qual è? Ma io comincerei con ristabilire un principio di maggiore libertà e pluralismo dell'informazione con il conflitto di interessi, una legge sul conflitto di interessi che è quella che spesso è stata promessa e non è mai stata fatta. E la seconda sarebbe quello di tornare a rimettere in piedi i diritti civili, i diritti sociali, i diritti dei lavoratori, rendere il sistema economico meno iniquo. E la terza è quella di rendere più efficiente il sistema penale, il sistema della giustizia italiana. Senta, lei sta facendo campagna elettorale tra i grillini cacciati o delusi? L'hanno accusata di prendere i vari Favia, Salsi, Tavolazzi, quelli che sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle. Guardi, io non faccio caccia, diciamo, al candidato, ai delusi di qua e di là. E io semplicemente ho portato avanti una piattaforma programmatica nel quale ovviamente con il movimento di Grillo ci accomuna alcune battaglie e quindi è normale che possa esserci un momento di convergenza fra chi sempre in quelle stesse battaglie crede, mentre il movimento non c'è più. Quindi può darsi che alcuni di questi entrino nelle liste, visto che sono gli ultimi giorni, quelli decisivi per la formazione delle liste. Lei non lo esclude? Non lo escludo, ci sono dei colloqui aperti. Ci può dire con chi di quelli che ho citato? Ma non è un mistero che con Favia si è parlato nei giorni scorsi, ma il fatto che si parli, che ci sia una interlocuzione, Non significa che porti candidature personali sia dalle persone con cui si è parlato. Questo certamente, però c'è un colloquio. Senta, anche ieri sera Silvio Berlusconi è tornato a parlare di lei, ha detto che lei è una persona di estremissima sinistra e penso con i brividi come ha gestito delicate indagini sullo Stato e la mafia. Lei cosa replica? Ma insomma, diciamo, è un disco rotto quello di Berlusconi, ripete sempre le stesse cose. E se vogliamo guardare il mio passato giudiziario, ci sono le sentenze dei processi più discussi che dimostrano che si trattava di processi tutt'altro che politici, ma processi fondati su prove, dalle condanne nei confronti del dottor Contrada, alle condanne nei confronti del senatore Dell'Utri, credo che parlino solo. Però a questo proposito molti dicono, appunto, lei ha fatto queste indagini, sono due le domande che sorgono per molti cittadini italiani. Il primo è, leggendole adesso a ritroso, bisogna pensare che erano indagini totalmente slegate dalla politica? Oppure, visto che lei adesso fa politica, uno potrebbe dire come leggerla in maniera totalmente indipendente a ritroso quelle indagini? Dico solo che questa è una deformazione molto italiana, nel senso che nessuno è passato veramente, che so, quando Rudolf Giuliani passò dal suo impegno di PM antimafia a quello politico di sindaco di New York, che avesse utilizzato la sua pregressa attività giudiziaria per diventare sindaco di New York. Io credo che il lavoro di ogni magistrato vada verificato sulla base del suo lavoro, non di quello che poi eventualmente fa dopo. E quindi andiamo a guardare l'esito di quei processi e i provvedimenti giudiziari che li hanno definiti e si vedrà che non ho mai inventato processi, ma c'erano prove solide e che sono state verificate come tali da tanti giudici. E la seconda questione è che lei ha già detto in realtà non utilizzerò mai quello che come pubblico ministero, comunque facendo delle indagini immagino è venuto a sapere anche con indagini approfondite che non sono le indagini che può avere un politico qualunque sulle persone che adesso sono suoi avversari in qualche modo della politica. Beh, allora se dovessimo seguire questa strada, quanti segreti l'avvocato viene a conoscenza nell'ambito del segreto professionale dai suoi clienti, che magari poi quell'avvocato diventa politico di quello stesso gruppo parlamentare del suo cliente, e nessuno sospetta che venga in qualche modo utilizzato come strumento di pressione qualche difensore ha saputo del segreto professionale. Questo è un gioco ozioso dal quale dobbiamo uscire. Senta, lei quanto pensa di poter valere in termini percentuali come lista Rivoluzione Civile? Cioè il quorum lo superate, è sicuro di questo, sia alla Camera che al Senato? Guardi, noi siamo una lista molto giovane, abbiamo poco più di una settimana di vita, e in una settimana di vita i primi sondaggi, per quello che valgono ovviamente i sondaggi delle intenzioni di voto in questa fase, ci ha fatto schizzare da uno 0% poco più al 4-5%, cioè vicini o comunque al di là dello sbarramento. Questo mi fa essere molto ottimista, ma mi fa essere molto ottimista soprattutto l'entusiasmo che percepisco attorno a me, sulla rete, la gente che incontro per strada, ma anche le tante mail che sono affluite, i Twitter sul mio profilo, e tutto questo dimostra che c'è una grande voglia di partecipazione da parte della società civile e che il mio messaggio è stato compreso. Non è ancora stato sufficientemente diffuso, via via che arriveremo a un maggior numero di italiani saremo sempre di più, quindi sono ottimista. Le chiedo questo, lei oggi sul Fatto Quotidiano parla ed entra sulla questione dei cosiddetti impresentabili, è il giorno delle formazioni delle liste e ci sono persone che sono indagate, in alcuni casi sono state condannate, magari non in via definitiva. Mi ponga a suo parere quale deve essere il paletto fisso per non candidare una persona. Cos'è? Una condanna? Una condanna in primo grado? Una condanna definitiva? O un'indagine in corso? In Italia siamo arrivati a una soglia intollerabile, e cioè i condannati che dalle condanne traggono un punto in più nel curriculum per entrare in Parlamento. E allora noi dobbiamo cominciare a rovesciare questo ragionamento. I condannati, i rinviati a giudizio per reati gravi, quindi laddove ci sono stati dei provvedimenti non di un pubblico ministero ma di un giudice che abbiano ritenuto un minimo di validità il quadro probatorio a loro carico, ma ci sono altri fatti che vanno ben al di là anche dei provvedimenti giudiziari. Se ci sono dei casi clamorosi in cui dei fatti dimostrano non che si sia commesso un reato, ma che ci sia stata una condotta, diciamo così, riprovevole, un'appropriazione del denaro pubblico o un'appropriazione del denaro dato ai partiti per altre ragioni, per usi personali, beh, questo dovrebbe ben consigliare i partiti di intervenire facendo scattare quel criterio di responsabilità politica che deve essere responsabilità penale, che funziona in qualsiasi parte del mondo e non funziona. Ma i fatti chi li stabilisce, se non un giudice, se non in via definitiva? Ma quelli sono i fatti, diciamo, di responsabilità penale. In Germania e in Inghilterra è un minimo scandalo mette in condizioni il politico, dovrebbe avere lui l'accortezza di farsi da parte, se non lo fa lui lo fa il suo partito. Qui non c'è il rischio però appunto che si torni al potere dei magistrati, basta aprire un'indagine, poi l'indagine non è detto che poi che sfoci a qualcosa di concreto e una persona si dovrebbe dimettere. Certo, se ci possono essere i casi di persecuzione giudiziaria, però i casi di persecuzione giudiziaria non possono verificarsi quando ci sono i fatti. Allora, ci sono o non ci sono i fatti? Ci sono o non ci sono dei casi, leggiamo oggi sui giornali fino ad oggi, casi abbastanza, sembra si sia toccato il fondo con i politici che si sono fatti perfino comprare gli elettrodomestici di casa. Insomma, stiamo arrivando veramente in basso come più non si può. Sì, si riferisce alla Lega. Noi tra poco avremo anche Roberto Maroni ai nostri microfoni. Senta, perché candidare Ilaria Cucchi, che è una persona certo che si è battuta molto per scoprire le responsabilità sulla tragedia del fratello morto, ma accuseranno sia lei sia Ilaria Cucchi di volere sfruttare questa terribile tragedia? Beh, perché candidare i familiari delle vittime della mafia o i familiari delle vittime della mala giustizia? È il principio per il quale chi ha vissuto sulla propria pelle esperienze terribili, a volte appunto frutto della criminalità organizzata, a volte frutto del cattivo funzionamento del sistema giustizia o sintomo di una realtà carceraria che va profondamente modificata, si tratta delle persone che hanno vissuto sopra la propria pelle questa esperienza, sono stati testimoni ed esponenti di battaglie per i diritti civili, per i diritti sociali, e proprio per questo è bene, è giusto che gli sia dato la possibilità in Parlamento di proseguire con le stesse battaglie per fare delle leggi che consenta che non si ripetano più certi drammi. Io le chiedo questo, dottor Ingroia, lei è in aspettativa, dovesse non andare bene alle elezioni, lei esclude di poter tornare a fare il magistrato o c'è questa possibilità anche? Se, diciamo, con i dovuti scongiuri, se non dovesse andare bene... E credo che alle Nazioni Unite e in Guatemala siano pronti a riaccogliermi. Riprenderei un incarico legato ovviamente alla mia attività di magistrato, ma certamente fuori dal fuoco della polemica e dell'esposizione politico-mediatica in Italia. Quindi nel caso tornerebbe in Guatemala, cioè il magistrato in Italia, lei anche per le tensioni, le polemiche che ci sono state, esclude di poter tornarlo a fare? Ritenerei del tutto inopportuno tornare a farlo subito e riterrei inopportuno tornare a farlo nello stesso ruolo rivestito in passato. A proposito del Guatemala, non si sente un po' in qualche modo di avere tradito la fiducia delle Nazioni Unite che le hanno dato, e poi lei dopo tre mesi in Guatemala subito se ne torna in Italia per un'altra avventura? Ma anche su questo, diciamo, c'è una eccessiva drammatizzazione spesso mentale che si vede in Italia in queste polemiche, e quando io ho reso noto questa eventualità e poi questa decisione, la mia decisione e l'opportunità e l'eventualità è stata accolta con grande freddezza, senza grandi, diciamo, disperazioni da parte dei vertici delle Nazioni Unite, se non altro perché si tratta sempre di incarichi temporanei. Il mio incarico era peraltro previsto per meno di un anno. E già in precedenza, sicuro, il mio predecessore, sì, che rivestiva prima questo stesso ruolo in Guatemala, era un argentino che dopo meno di 6 mesi anche lui lasciò l'incarico per partecipare alle elezioni in Argentina, oggi un parlamentare. Insomma, non c'è questo grande amore per il Guatemala. Chi va in Guatemala non è che si trova benissimo. Evidentemente. No, vabbè, c'è chi resta e c'è chi torna prima. L'ultima domanda è questa. Sulla vicenda famosa delle intercettazioni che hanno coinvolto il capo dello Stato, una cosa che io non ho capito, ma lei il contenuto, quel contenuto che non sarà mai svelato, lo conosce ovviamente di quelle intercettazioni? Ovviamente, come i pubblici ministeri di quel processo, sì. Penserà mai di svelarlo? O ha mai pensato che potesse essere una questione doverosa anche svelarlo per l'informazione del paese italiano? Assolutamente no, perché in base alla legge era rigorosamente vietato in qualsiasi modo che venisse rivelato, e credo che la cosa più importante che al contrario di quello che è accaduto in altre indagini, in altri processi, non è mai uscita una riga, che sia una riga, di questa intercettazione, proprio perché il pool che io ho coordinato ha tenuto un rigorosissimo segreto attorno a queste indagini. Tutta la condotta alla quale noi ci siamo improntati era proprio mirata a tenere il massimo riservo su quelle intercettazioni, compreso la nostra decisione di non distruggere le intercettazioni. Infatti fino ad oggi non è uscito nulla. E spero che non esca nulla, visto che questo che è stato okay. Deciso. Okay. L'ultima battuta su questa me la sono dimenticata, sempre Berlusconi ha detto che Dell'Utri è un galantuomo perseguitato da lei. Beh, perseguitato da me, da tanti tribunali d'Italia, Corte d'Appello d'Italia, cioè tutti quelli che lo hanno invece dichiarato colpevole di rapporti stabili con l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, per la quale almeno fino a una certa data è stato riconosciuto colpevole del reato dell'associazione mafiosa perfino alla Cassazione. La ringrazio, buona giornata, ovviamente in bocca al lupo come faremo a tutti i candidati per la corsa elettorale. Era Antonio Ingroia, candidato premier per Rivoluzione Civile. Noi ci fermiamo per la pubblicità del meteo, tra 3 minuti sarà con noi il segretario federale della Lega Roberto Maroni per l'altra notizia forse del giorno, l'accordo PDL Lega sarà con noi dalle 8.30 alle 9. 24 mattino. Ecco, ci siamo qua ancora in diretta e con noi fino alle 8.55, pochi minuti prima delle 9, c'è il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, che saluto, buongiorno e grazie di essere con noi, Maroni. Buongiorno, grazie a voi. Allora, per parlare della notizia che è certamente la notizia del giorno su tutti i giornali, l'accordo tra PDL e Lega. Allora, intanto le chiedo questo, lei Maroni 2 settimane fa circa definiva chi è questo signor B, Berlusconi, e ora c'è questo accordo importante che spariglia molto le carte anche della politica. Come si è arrivati a questo accordo con Berlusconi? Si è arrivati con una lunga trattativa, ma partendo da 2 presupposti. Primo, che il PDL finalmente, io dico, ha capito che ha fatto male a sostenere il governo Monti e che il governo Monti ha fatto danni e si è messo all'opposizione. Secondo, che la Lega e PDL sono al governo in 4 regioni del nord, Piemonte, Veneto, Friuli e Lombardia, perché siamo ancora al governo con il PDL in Lombardia, e in 400, quasi 500 amministrazioni comunali nel nord. Quindi l'alleanza Lega-PDL è nei fatti. Secondo punto e più importante, ho voluto verificare se c'era una prospettiva comune su cose concrete, adesione ad alcune proposte che la Lega ha fatto e che vuole realizzare, in particolare la costituzione della macro regione del nord, mettendo insieme le regioni dove governiamo per creare una struttura federale più vasta, più forte, più potente. Sì. E secondo punto cruciale, l'idea di mantenere, di trattenere in queste regioni almeno il 75% del gettito fiscale prodotto da queste regioni. Oggi non supera il 35%, più del doppio quindi di quanto oggi rimane in queste regioni in termini di tasse pagate. Questo è un punto molto interessante, questo tra l'altro. Ho avuto l'adesione, sì, su questi 2 punti e quindi ho deciso che si poteva fare, perché per noi vincere in Lombardia, per la Lega, è un passaggio fondamentale per realizzare il nostro programma. Questo è il punto sul quale vorrei concentrarmi tra pochissimo, perché tutti i giornali analizzano proprio questa idea di trattenere oltre il 75% delle tasse al nord. Prima però di questo punto molto importante le chiederei ancora una cosa sulla questione della cosiddetta base leghista. Sa meglio di me che molti sono i mugugni. Come spiegherà, sì, a chi mugugna la necessità di un'alleanza con Berlusconi? Ci sono sempre, guardi, io nella storia della Lega c'è stato ben peggio, ci sono state rotture, ci sono state scissioni, ci sono state guerre intestine e quindi è normale, perché la base della Lega è fatta di persone vere, di persone che ragionano con la propria testa, di persone che hanno grande passione nel fare politica. E la spiegazione è questa, che noi siamo riusciti ad ottenere in questo accordo quello che volevamo e che così ci sono le condizioni per vincere. Così io posso vincere in Lombardia e realizzare il sogno che Miglio lanciò tanti anni fa di costituire la macro regione. Queste sono è la situazione oggi, e con questi argomenti io penso che riusciremo a risolvere questo, che non è un problema, è una normale reazione, direi sana reazione, sì, della base nei confronti di decisioni prese che vanno spiegate certamente, ma che sono coerenti con il, con la nostra linea politica. A proposito appunto dei conti, oggi il Sole 24 Ore, non so se l'ha già letto, Dino Pesole fa un po' i conti su questa idea del trattenere il 75% per servire a abolire per esempio l'IRAP, intervenire sull'IMU, cancellare il bollo dell'auto, questo lei ha detto, però tecnicamente non si capisce, cioè ci sono molti ostacoli tecnici a questa cosa. Intanto pensa che il governo centrale potrà mai aderire a questa proposta di trattenere il 75% di tasse al nord? Ma se vinciamo noi certamente sì, perché nell'accordo fatto col PDL c'è proprio questo, c'è questo punto, questo principio, e attenzione, nell'accordo si dice che questo punto non vale solo per la Lombardia, ma è un programma elettorale della coalizione anche per le elezioni politiche, oltre che per le elezioni regionali. Però bisogna vincere anche a Roma, quindi, però. Certo, primo punto. No, voglio dire, se vinciamo a Roma è fatta, perché è nel nostro programma. Non vinciamo a Roma, vince Bersani. Bene, voglio vedere Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, questo fronte compatto che si mette a negoziare col governo di Roma su questo punto, e il governo di Roma cosa fa? Fa finta di niente? Non credo proprio. Deve fare i conti con noi, deve venire a negoziare con noi. E noi diciamo che questo punto si deve realizzare non domani, ma nel corso della legislatura. Per esempio l'IRAP è una delle tasse indubbiamente vista come una delle tasse più odiose, però il Sole 24 Ore oggi dice garantisce un gettito di 38,5 miliardi che va a coprire per il 40% la spesa sanitaria dell'intero territorio nazionale. C'è sicuramente un'asimmetria, il nord paga molto di più per tutte le spese che poi vengono distribuite per tutta l'Italia, però come coprire un'eventuale mancanza di gettito se si cancellasse l'IRAP? Io parlo della Lombardia, l'IRAP in Lombardia sono 8 miliardi, attualmente rimangono in Lombardia circa 22 miliardi, che sono il 35% delle tasse pagate dai lombardi. Se arrivassimo al 75%, questi 22 miliardi, a questi 22 miliardi se ne aggiungerebbero altri 25-26. L'IRAP è 8 miliardi, è facile, verrebbe cancellata immediatamente. Questo per la Lombardia, varrebbe per il Piemonte, per il Veneto, per le regioni del nord, che sono regioni che pagano molto di più di quanto ricevono. Il problema si pone per le altre regioni, certamente. Certo. Ma noi prevediamo, infatti, non siamo egoisti, non diciamo ci teniamo il 100%, cosa che peraltro potrebbe fare la Sicilia, perché il suo statuto questo prevede. C'è un 25% di gettito tributario che verrebbe messo a disposizione per la perequazione nazionale. In un processo graduale si può arrivare a fare in modo che ciascuna regione possa coprire, IRAP o non IRAP, l'assistenza sanitaria. Alcune regioni possono farlo da subito, quelle del nord, per altre ci vorrà un po' più di tempo, bisogna accompagnarle. Però il principio che le tasse pagate dai cittadini rimangano lì dove sono pagate è un principio di equità. Senta, c'è una questione sul candidato premier. Allora, qui avete una posizione, Berlusconi indicherebbe Alfano, lei ha indicato Tremonti, ieri Berlusconi ha detto che Tremonti non è adatto. Lei rimane sulla, voi rimanete sulla questione Tremonti, e come se ne esce da questo che non sembra un accordo su questo molto molto solido? No, no, l'accordo c'è, guardi, nell'accordo si dice che il candidato premier verrà indicato di comune accordo da me, dal presidente Berlusconi, dopo le elezioni, quando se dovessimo vincere naturalmente, e l'accordo su questo c'è. Berlusconi ieri ha anticipato la sua preferenza per Angelino Alfano, e io ho detto benissimo, mi sta bene Alfano, è una persona che stimo, ci ho lavorato assieme come ministro. Io aggiungo anche la figura di Giulio Tremonti, che è un'altra persona sicuramente in grado di fare questo, di svolgere questa attività, però l'accordo è che ci vedremo io e lui e decideremo di comune accordo quando dovessimo vincere le elezioni. Ma nell'accordo c'è scritto, oggi il Corriere della Sera scrive che è scritto in maniera nero su bianco che Berlusconi non si impegnerà a non essere il premier. Esiste questa cosa scritta? Non si candiderà alla presidenza del Consiglio. l'accordo che abbiamo preso, è un atto di generosità da parte sua. Ma è scritto proprio nero su bianco, cioè è scritto? È nell'accordo, certo, abbiamo fatto l'accordo e nell'accordo c'è oltre il 75%, oltre la macroregione c'è anche l'impegno a non candidarsi e a individuare un candidato comune per la presidenza del Consiglio. L'hanno già definito l'accordo della Guardiola, questo almeno sul Corriere della Sera. Ma è vero che Calderoli, questa è una cosa di colore, cosa significa l'accordo della Guardiola? Perché Calderoli ogni tanto, racconta il Corriere, lasciava la sala dell'accordo perché non c'erano computer disponibili, andava nella Guardiola di Arcole dove c'era l'unico computer accessibile con la password per scrivere a computer quello che veniva detto. È vera questa cosa? Ma guardi, sono tutti retroscena che i giornali piacciono molto. Beh, ma è vero o no? È un retroscena io da vero? Ministro, no, assolutamente non no. È vero. Io da ministro del welfare ho partecipato a tante trattative sindacali finite alle 3, alle 4 del mattino e c'erano scene di tutti i tipi dal punto di vista del colore, quindi, ma lì è stata una cosa normalissima. Tutti questi retroscena, capisco che i giornali servono per colorare un po', però sono appunto più o meno invenzioni dei giornali che non hanno poi nessun peso nelle questioni vere e nelle questioni concrete, che sono, ho raggiunto l'accordo, possiamo vincere Lombardia, certamente sì, e per quanto mi riguarda questo è il punto principale, perché vuol dire realizzare il progetto che io ho illustrato al Congresso federale della Lega primo di luglio, costruire la macro regione del nord. Allora, facciamo così, ci sono le informazioni sul traffico, con noi c'è Roberto Maroni, il segretario federale della Lega, tra un minuto rientriamo, parliamo anche di quello che i giornali ancora definiscono come l'inchiesta che riguarda i fondi che sarebbero stati utilizzati in maniera impropria, secondo l'accusa al Senato, lei l'ha definita già una bufala, ma da qui ripartiamo tra un attimo. Eccoci qui ancora, siamo in diretta con Roberto Maroni. Maroni, c'è questa inchiesta a Roma nella quale una ex segretaria della Lega al Senato, Manuela Privitera, accusa alcuni senatori della Lega di aver utilizzato fondi del Senato per spese personali. Perché lei definisce una bufala? Cos'è? Si è inventato tutto? Lo fa per vendetta questa segretaria? L'inchiesta non riguarda nessun esponente della Lega. L'inchiesta riguarda proprio questa signora che è stata licenziata dalla Lega e denunciata dal sottoscritto per appropriazione indebita, perché avrebbe preso soldi dal gruppo sul suo conto corrente senza averne titolo. Quindi l'inchiesta riguarda una persona che la Lega ha denunciato e licenziato. Il licenziamento è stato posto davanti al giudice del lavoro di Roma. Il giudice del lavoro di Roma ha dato ragione alla Lega Nord, confermando il licenziamento. Questa persona, nel suo interrogatorio, ha detto cose su esponenti della Lega che, guarda un po', i giornali portano come accuse e inchieste su esponenti della Lega. No, ma è vero, andranno provate, insomma, sono accuse che... Certo. Ma non è inchiesta, sono affermazioni fatte da una persona che la Lega ha licenziato contro esponenti della Lega. È come se io dicessi che lei o qualcun altro di Radio 24 ha preso dei soldi. Non siete sotto inchiesta, sono io che dico una cosa non vera e voi avete tutto il diritto di querelarmi, cosa che noi abbiamo fatto. Cioè, ha querelato la signora? Il senatore, io l'ho denunciata. Sì. Io denunciata. No, ma adesso querelare, nel senso, l'ha anche querelata per queste... Io l'ho non parla di me. Chi è stato coinvolto presenterà querela. Il nostro avvocato, andando a vedere i fatti e andando a verificare questi fatti, il nostro avvocato ha detto che queste dichiarazioni sono una bufala galattica e questa è la realtà dei fatti. Non c'è nessun indagato della Lega, l'unico indagato è una persona che la Lega ha denunciato e licenziato. Ma questi fondi che la signora Privitera dice venivano dati in contanti, tre conti, cioè lei esclude che sia stato fatto qualsiasi cosa di illegale o di utilizzo di fondi? Guarda, ci sono tre o quattro dichiarazioni fatte dal capogruppo, dal nostro presidente del gruppo, senatore Federico Bricolo, che smentiscono queste cose, a questo mi rifaccio. questo. Il fatto che vengano convocati sia Calderoli e Bricolo come teste però dalla procura, così scrive oggi Repubblica, è un qualcosa che può secondo lei insomma turbare anche in questo momento, in un momento di campagna elettorale, sia gli elettori adesso, sia lei? Ma scusi, adesso essere convocati come testi vuol dire essere dei delinquenti, del criminale? No, io le chiedo se può turbare in questo momento di campagna politica questa non bella pubblicità sui giornali, ecco questo. Ma sono convocati come testi, di che cosa stiamo parlando? Sono convocati come testi, cioè adesso veramente stiamo stravolgendo le cose, sono convocati come testi, l'inchiesta di Roma non ci riguarda, riguarda una persona che la Lega ha denunciato, punto, e quindi dal nostro punto di vista non c'è nessunissimo problema. Le chiedo invece la vicenda che riguarda la partita di calcio che c'è stata tra Pro Patria e Milan. Avrà letto anche lei che tra gli indagati, tra gli ultra della Pro Patria, c'è un assessore di Corbetta che fa parte della Lega, Riccardo Grittini. Va bene, scusi, ma se dobbiamo parlare di queste cose, francamente... È una domanda che le faccio. Io vorrei parlare di cose un po' più importanti. Questa è una vicenda personale che riguarda una persona e che riguarda una vicenda su cui io ho già espresso la mia opinione. Quindi, gliela chiedo anche noi. In mezz'ora abbiamo parlato di tante cose importanti. Le sto facendo una domanda su questa che mi sembra una notizia di cronaca. Se non fossi giornalista non gliela farei. Sì. Non vuole dare il suo commento su questa vicenda? Ho già detto che chi ha usato questi cori razzisti è un cretino, e quindi chiunque sia è un cretino per quanto mi riguarda. Io vorrei parlare anche di questioni dei giovani e della disoccupazione giovanile. No, ma su questo sì. La crisi sociale che stiamo affrontando. Guardi che le ho fatto una domanda di un minuto su tante questioni che stiamo affrontando, e quindi anche su questo lei ha dato il suo parere. A proposito di questo, se lei fosse eletto governatore della Lombardia, intanto le piace il termine governatore, perché a molti no, ad altri sì. Come vorrebbe essere chiamato? Presidente. Mi piace, è un termine ormai in uso, mi piace. Dà l'idea proprio di un modello che a me piace molto, che è quello americano, dove il governatore degli stati ha i pieni poteri per gestire lo Stato, compreso quello sull'ordine pubblico e quello sulle imposte, e quello è il modello che a me piace non solo per la Lombardia ma per l'Europa. La prima cosa che dovrebbe fare, secondo lei, se fosse eletto presidente della Lombardia, o i primi tre provvedimenti, se non sono troppi, se ce li può riassumere velocemente? Sì, la prima cosa è stipulare un accordo con i governatori delle altre regioni per mettere le basi per creare la macro regione del nord. Una regione così importante e vasta sarebbe la locomotiva dell'Europa, metterebbe in moto un meccanismo di cambiamento di questa Europa che non funziona, verso quella che noi chiamiamo l'Europa delle regioni o l'Europa dei popoli. E poi, come ho detto, prendere subito le iniziative per trattenere progressivamente il 75% delle tasse pagate, diminuire la pressione fiscale sulle imprese. Fare tagliare costi per tagliare spese per diminuire la pressione fiscale sulle piccole e medie imprese. Questa è la prima e più importante cosa da fare. Lei ha detto anche che si potrà così togliere il bollo auto da pagare ai cittadini della Lombardia. Non è un po' una delle promesse elettorali che si fanno, come se fosse paragonabile, appunto, togliamo l'IMU sulla prima casa, quelle cose che poi però vanno poi coperte, visto che si tolgono dei conti, vanno coperte in altro modo. Il bollo auto getta 985 milioni in Lombardia, gettito fiscale, quello che noi vogliamo trattenere, il 75% sono 25 miliardi, faccio un po' lei i conti, la prospettiva è se riusciremo a trattenere, io voglio che questo si realizzi naturalmente, anche se nei 5 anni di legislatura tutti questi soldi a regime saranno in ogni quinquennio saranno 100 miliardi di euro. Con questi soldi, altro che bollo auto, si può cancellare il ticket, che sono 800 milioni, l'accisa regionale sulla benzina, 565 milioni, dare i libri gratuitamente, come è giusto che sia, per le scuole elementari e le scuole medie, 64 milioni di euro. Noi abbiamo i soldi per fare tutto questo, i cittadini lombardi hanno i soldi per fare tutto questo. E io credo che dopo oltre 60 anni di prestiti generosi ad altre regioni, i lombardi abbiano il diritto di fare con i loro soldi ciò che vogliono. La questione è però, se si cancellasse l'IRAP nelle macro regioni del nord e non nelle altre regioni, non c'è uno, cioè, come può reggere il concetto di unità nazionale se non c'è anche un'unità fiscale? Il concetto di unità nazionale è una bellissima cosa, ma esiste anche il concetto di responsabilità. Io non posso continuare a spendere i soldi degli altri senza intervenire a razionalizzare la spesa. È questo che noi chiediamo alle regioni del sud. Se riusciamo a farlo noi, non si capisce perché le altre regioni in un periodo ragionevole di tempo non riescano a farlo. Siamo disponibili a mettere a loro disposizione le nostre conoscenze, le nostre buone prassi. Si può fare? Certamente sì, perché c'è comunque una quota di riserva del 25% che serve appunto a questo, alla perequazione nazionale. Io penso che questa nostra proposta del 75% costringerà a mettersi in moto un meccanismo di efficientamento della spesa pubblica che porta poi tutte le regioni ad essere efficienti, chi più chi meno. Una regione non ce la fa, viene aiutata, una regione non vuole farcela, bene, è libera di spendere quello che vuole, ma chiederà ai suoi cittadini di pagare per questo, aumentando la pressione fiscale regionale. Sembra anche questa una prospettiva di equità. Allora, noi siamo alla conclusione, intanto ovviamente in bocca al lupo e grazie per essere stato con noi. Umberto Bossi lo vede, immagino, quotidianamente, essendo il padre nobile della Lega. Non si è espresso su questo pubblicamente? Su che cosa? Su questo patto. Si è espresso. Ieri sera abbiamo fatto una riunione con tutti i segretari provinciali, sì, della Lombardia. Ero presente io, era presente Umberto Bossi. E cosa dice di questa cosa? Assolutamente, mi ha fatto i complimenti per questa operazione, dicendo: è l'unica operazione possibile, complimenti, bisognava farla, ci è voluto del coraggio e tu ce l'hai per vincere in Lombardia, perché ripeto, per noi vincere in Lombardia è cruciale, una cosa strategica. Allora, grazie Roberto Maroni, in bocca al lupo ovviamente come a tutti, e noi ci ritroviamo domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.